Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, benvenuti. Sarà una splendida giornata. Ho pensato stamattina di raccontarvi una storia. Ecco qua. Una rana salta per caso in una pentola appena messa su un fornello acceso. La fiamma è bassa e la rana nuota a suo agio in acqua pulita e appena tiepida, in un ambiente confortevole. L'acqua pian piano si riscalda, ma la rana la trova ancora piuttosto gradevole. La fiamma si alza ulteriormente e l'acqua ormai è diventata calda, un po' più di quanto la rana apprezzi, ma non si spaventa, compie un piccolo sforzo e si abitua ben presto all'aumento del calore. Mano a mano che l'acqua si scalda, la rana sente che la temperatura è davvero troppo alta e quindi decisamente sgradevole. Purtroppo però ormai si è indebolita e quindi non fa più nulla per salvarsi. Così sopporta fino a quando la temperatura non si alza ancora fino a ucciderla. Che c'entra la rana di primo mattino a Obiettivo Salute Risveglio? Una storia curiosa, una storia da cui però prendiamo spunto per una riflessione che condividiamo oggi con Luca Mazzucchelli, che è tornato a trovarci. Eccoci. Psicologo e psicoterapeuta. Ciao Luca. Ciao. La storia della rana apre il tuo libro Fattore 1%, piccole abitudini per grandi risultati. Esatto, perché è una storia che in realtà parla un po' di tutti noi. Parla di me, parla di te Nicoletta e parla anche dei nostri ascoltatori. Perché certo, siamo tutte rane. Siamo tutte rane potenziali quantomeno, perché la rana rimane fregata da che cosa? Da questo piccolo cambiamento graduale che preso di per sé singolarmente non fa niente di male, ma se ripetuto nel tempo ci incastra e rischia anche di ucciderci. Ecco, la rana è morta bollita e anche noi rischiamo di morire bolliti. Una fine tristissima. Una fine tristissima. Di primo mattino. C'è da dire, non è non un bel modo solitamente. Non dovevi dire subito che era rimasta bollita. È vero. Però ecco, questa dinamica in realtà parla un po' di tutti noi. In che senso? Anche noi come la rana ci abituiamo a troppe cose rispetto alle quali, guarda, non dovremmo abituarci. Proviamo a fare un esempio, perché tutti noi sappiamo che siamo un po' schiavi delle nostre abitudini, sono un po' le nostre certezze, abbiamo degli automatismi, d'altronde è meno male, no? Meno male, perché sennò come per sopravvivere. Fai? Ecco, quando sentiamo parlare di consapevolezza, molti ascoltatori scrivendomi dicono sì, però ad averci il tempo. Certo. Quindi prendiamo un po', come tu fai nel tuo libro che io consiglio. Sapete che quando io vi consiglio un libro è perché l'ho sentito di pancia, l'ho letto, mi piace, secondo me ci può servire. Non devo dirlo io perché è stato un fenomeno editoriale proprio sulla crescita personale. Comunque ci porta per mano a visualizzare proprio dei nostri piccoli inciampi quotidiani. Quali sono queste piccole abitudini che rendono poi l'acqua troppo bollente, che rischiano veramente di bollirci? Quando diciamo sono bollito. Cotto e bollito. Ognuno ha le sue e invito l'ascoltatore a pensare, no? Quale può essere la mia abitudine peggiore che dovrei cambiare? Vedi, ogni tanto ci abituiamo ad esempio a essere trattati in maniera impari all'interno delle relazioni per noi importanti, oppure ci abituiamo alle troppe notizie negative che riceviamo dai telegiornali e quindi non ci fa più effetto quella determinata cosa lì, oppure ci abituiamo a determinati comportamenti o modi di pensare. Io solitamente quando parlo di abitudini faccio un esperimento di magia. Vuoi che proviamo? Dai! Mi piace. Allora, tu devi sapere, Nicoletta, che quando avevo 26 anni ho fatto un corso di micromagia e tra le varie cose ho imparato a leggere nella mente delle persone. Non so se mai fatto hai mai fatto un esperimento del genere in radio? No. Allora, guarda, io adesso faccio questa cosa. Io ora sono psicologo, ma questi trucchi magici mi hanno aiutato molto anche nella mia professione. Mi concentro ed entro nella testa, non tanto nella tua testa, Nicoletta, ma nella testa. Che perché temi che sia completamente vuota o troppo piena? Troppo piena, mi spaventerebbe. Comunque, l'effetto è uguale. Entro nella testa, proprio tua, di te che mi stai ascoltando adesso. Guarda, mi concentro, entro nella tua testa e risponderò a questa domanda. Chi sei tu esattamente in questo preciso momento? Aspetta che mi concentro, Sto entrando, arrivo. Non è vero, Nicoletta, t'ho preso in giro. Io ero già qua che chiudevo gli occhi. Ma sai perché t'ho preso in giro? Perché in realtà non serve un mago per dirti tu chi sei oggi esattamente. Perché tu, caro ascoltatore, cara ascoltatrice, oggi in realtà non sei niente di più e niente di meno che il risultato delle abitudini che hai adottato negli ultimi 5 anni. Prova a farci caso. Allora, negli ultimi 5 anni tu hai avuto l'abitudine di mangiare 3 volte al giorno da fast food o di mangiare sano? Hai avuto l'abitudine di fumarti 2 pacchetti di sigarette al giorno o hai avuto l'abitudine di fare 15 minuti di ginnastica ogni giorno? Hai l'abitudine e hai coltivato l'abitudine di lamentarti quando le cose non andavano come avresti desiderato oppure di cercare le opportunità nella crisi? L'abitudine di leggere e di mettere nella tua testa ogni giorno un'idea di valore o l'abitudine di giocare 4 ore al giorno alla PlayStation? Sono scelte, sono abitudini, non sono notiziabili dall'oggi al domani, però vedi, se ripetute tante volte nell'arco del tempo fanno tutta la differenza del mondo. Ecco, però c'è anche una buona notizia che voglio dare a te e agli ascoltatori. Così come è vero che tu oggi sei il risultato delle abitudini che hai acquisito negli ultimi 5 anni, posso dirti chi tu sarai tra 5 anni. Dai. E questa è un'altra magia che non è una magia, ma è in continuità con quello che ho appena detto. Tra 5 anni tu sarai il risultato delle abitudini che oggi decidi di acquisire, perché le abitudini sono una scelta. E questa è un po' una mia battaglia culturale, più abitudini e meno motivazione, io dico. Non perché sia arrabbiato con la motivazione o io non creda alla motivazione, motivatore, eccetera, ma perché guarda, se vogliamo parlare di cambiamento sostenibile sul lungo termine, allora questo cambiamento è fatto un po' meno da motivazione e un po' più dalle abitudini. Facci caso, non so, quando tu sei motivato e decidi di iscriverti in palestra. Bravo. Il tema dell'esercizio fisico l'abbiamo affrontato tante volte perché è uno dei pilastri della salute, della longevità, come un'alimentazione varia ed equilibrata. Bravissima, esatto. Però, allora, guarda, sai cosa c'è? Quando io mi sento motivato, mi sento un po' un dio, il che mi fa anche piacere perché mi fa fare i fioretti, no? E mi avvicino alla migliore versione di me stesso, no? E dico, ecco, io voglio andare in palestra 3 volte alla settimana, mangiare frutta, verdura, eccetera, eccetera. Ecco, però poi cosa succede? Allora, mi sento motivato sull'onda della motivazione, mi iscrivo in palestra e passo la carta di credito, magari. Ecco, e vedi, la motivazione... È un attimo, Ed è un attimo, tra l'altro, non te ne accorgi. Abbiamo costruito zone intere. Metà palestra l'ho fatta io. E vedi, e finché sei motivato, tu ci vai in palestra e ci vai il primo giorno, il secondo, magari arrivi anche a 2 settimane. Poi però cosa succede? Che la motivazione è scema. E tu ti ritrovi a combattere con le unghie e con i denti con che cosa? Con le tue solite abitudini di sempre. Allora, le abitudini alimentari, le abitudini di movimento. Ecco perché se vogliamo creare un cambiamento sostenibile nel tempo dobbiamo cambiare le nostre abitudini, perché le abitudini sono proprio quella cosa lì, sono quella spinta gentile, quotidiana, costante che ogni giorno ti fa cambiare di quell'1% che sulla lunga corsa fa la differenza della tua vita. E appunto la vita non è una 100 metri ostacoli, ma è una lunga maratona. E quindi dobbiamo tutti quanti noi imparare ad acquisire buone abitudini per farci avvicinare giorno dopo giorno alla nostra migliore possiamo versione. Possiamo farlo da oggi? Da oggi, dai, pronti facciamo via. Facciamo un piccolo, perché no, certo. Non possiamo magari lanciare dei suggerimenti, poi ciascuno di noi li interpreta, sceglie, dice questo mi piace, questo non mi piace, questo che cosa sta dicendo, quei due, no, per radio che mi dicono di cambiare abitudini, ma perché mai? Se io sto benone... Assolutamente. Allora, diciamo così. E c'è anche questo. Ma se io sto benone. Se io sto benone. Basta, allora tira i remi in barca, no? Tira i remi in barca e chiudiamo qua la baracca. E basta, stai benone. Spegni la radio. Va bene. Allora, facciamo un'ipotesi. Un'ipotesi. Allora, lo so, voglio acquisire l'abitudine quando mi sveglio la mattina di pensare al mio obiettivo principale di oggi. È un'abitudine importante, è un'abitudine vincente, perché se tu quando ti svegli la mattina pensi a qual è l'obiettivo principale, 1, 2, 3 obiettivi principali, riesci a ottimizzare il tempo che hai a disposizione. Fammi gli esempi di obiettivi principali sono della giornata o nel lungo periodo? Della giornata, questa è un'abitudine quotidiana, quindi non so, quali sono quelle 2 o 3 cose che che se stasera a giornata finita io riesco a fare, posso dirmi soddisfatto della mia quotidianità, della mia giornata. Ecco, e allora non so, può essere fare una bella intervista con la Nicoletta, perché questo per me è importante, no? Amore. Oppure riuscire a dedicare del tempo ai miei figli, oppure riuscire a consegnare quel progetto particolare. Sì. Allora, mettere a fuoco queste tre coordinate della mia giornata mi è molto utile, perché poi ho un sacco di urgenze, di emergenze nel corso delle 24 ore che ho a disposizione, e però io ho una bussola sulla quale ritornare come un attimo di tempo libero e non mi perdo in compiti poco importanti. Allora, se io volessi implementare questa abitudine nella mia quotidianità, partirei dai segnali. Sì. Cosa sono i segnali? Circondo il mio ambiente di segnali che mi ricordino che devo fare quella cosa lì, quindi che devo pensare ai miei obiettivi principali. Un segnale può essere un post-it messo sul computer che con su scritto qual è il tuo obiettivo principale di oggi? Vedi, io vedendo quel segnale mi ricordo che se voglio posso pensare ai miei obiettivi, oppure la mia agenda aperta sulla tastiera del computer, io la vedo e quello è un segnale che mi ricorda che se voglio posso scrivere i miei obiettivi della giornata, o un alert sul cellulare che alle 8 mi dice: hai già pensato ai tuoi obiettivi della giornata? Dopo che abbiamo circondato i segnali il nostro ambiente per ricordarci di fare quell'azione, possiamo farla partire, ma non subito l'azione fatta e finita. Partiamo da una cosa semplice, talmente semplice da non poter dire di no. Quindi non è che mi metto a scrivere i miei tre obiettivi, ma magari ne penso solo uno. Cioè, grandi azioni, grandi cambiamenti, grandi comportamenti richiedono una grande energia di attivazione, una grande forza di volontà. Rendi il tuo comportamento che vuoi creare automatico talmente semplice da non poter dire di no. Non partire con l'idea di fare 45 minuti di corsa. Parti con l'idea di fare un riscaldamento a 30 secondi. Non partire con l'idea di fare 100 flessioni. Inizia a fare una flessione. Rendilo talmente semplice da non potergli dire di no. Lavoraci su un po' e gradualmente aumenti anche l'intensità del comportamento. E a proposito di abitudini, 349-238-6666. Dillo alla Nico. Anche tu, dillo alla Nico con un messaggio vocale, e poi tra questi ne selezioneremo alcuni e chiederemo ai nostri esperti di darci una mano per rispondere ai vostri dubbi e per darvi delle buone indicazioni. Buonissima giornata, Luca. Grazie Nico, un caro saluto a tutti. Buona giornata. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.